giovane amante. Ti è bastata una delusione per perdere la fiducia in tutte quante le altre persone. Non è forse la prova del fatto che credi di amare una sola persona, ma in realtà in persona la tua fiducia nella società. In ogni treccio scompaiono il fuori e il dentro, in ogni abbraccio le anime si mordono digerendo più di un evento. Chi ha una fame da lupi si ritrova ad ululare alla luna, e tu credi sia solitudine se non la vivi con la paura di essere osservata alla Truman. Ma ogni desiderio è molteplice. Attente donne a dire che l'uomo pensa una cosa sola, potresti anche convincerlo, dirigerlo dall'universo verso un versante. Ma è l'amore stesso il crinale con la tensione più estrema e mutante. E uno sguardo lungimirante tradisce pluralità oltre il desiderato ed il desiderante. Ogni storia d'amore ha più di una morte un parto, ed ogni primogenito il quarto. Il cervello non pensa con il grande ma con un glande. E fecondo in un'onda anche la sponda più distante. Il fanciullo sceglie fra le opzioni cosa far da grande. Il grande sa che solo le creazioni lo rendono più grande, superando ogni duale deficiente. Solo un foglio e non un tronco può bruciare e non spegnersi lentamente, così come un tronco emana più calore sul crinale fra la cenere e il rossore. L'immortale di Borghese nella Lef brucia 100.000 volte l'uno e supera il nessuno, poiché ognuno ed ognuno un bluff. Se stessi al gioco dei miei se stessi, perdere il gioco ed il rischio ed il crinale che li ha espressi, e se li perdessi?